bentornati in studio. Questo è Blues Express, Rocket Fam, in compagnia del Puma di Lambrate, Fabio Treves, e di Maurizio Glielmo della Gnola Blues Band. Maurizio, so che tu te ne devi andare perché hai degli impegni di lavoro con le tue lezioni. Vuoi ricordare quei concerti di cui mi parlavi prima? Ma allora, il 13 di giugno siamo al Rootsway Blues Festival a Sessa, Parma. In provincia di Parma. Il 31 di maggio, il giorno che finisce subito dopo la chiusura delle mitiche 24 ore di Rock FM, siamo qua a Milano in piazzetta San Carlo. Ci dovrebbe essere qualcosa, una specie di notte bianca. Ok, quindi dopo... io sono a Paderno Dugnano, ma penso... Come facciamo? Come facciamo? Metà di qua e metà di là. Va bene. Oppure tre quarti di là e un quarto da te, non lo so, decidiamo. No, dopo ci facciamo... giochiamo. La cosa importante è che dalle ore 18 di venerdì 30 alle 18 di sabato 31, il quartiere di Milano, zona centrale, sia inondato da gente al grido di Rock FM, Rock FM. Allora Maurizio, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stato in questa bellissima puntata. Ci risentiamo, facci sentire qualcosa. Faccio sentire un brano. E faccela sentire. Un brano di Muddy Waters. Dedicato a tutti gli amici della Liguria. Esatto. Di questi Toscana. Anni a Rock FM. E ciao. Time. Don't you wanna go? Well, I'm in trouble. I'll be Howard mine. Well, I never can be satisfied, but I can't keep on crying. Well, see my little baby jump and shout. Whole train got let down. It's been walking down. Well, I'm in trouble. Or better at some place where I'm in trouble. I'll be all worried, man. Well, I never can be satisfied, but I can't keep from crying. Yeah, I'm gonna wait a little, won't be back no more. Going back down south, child, don't wanna go. Well, I'm in trouble. me down on Rampart Street. I seen everybody that I wanted to meet. She said, hey Johnny, stop and listen to me. They got something to knock you off of your feet. It's called a mojo boogie. It's called that mojo boogie. You know that mojo boogie. Begin to slide on down. She was teaching me a brand new way. I said, Gypsy, tell me what to say. I got the bluesy and a boogie and the other kind of thing. They even got the thing they call the mojo hand. They got the mojo boogie. It's called that mojo boogie. You know that mojo boogie began to slide on down. Ultima nota di slide, il grande Johnny Winter, l'albino Johnny Winter. Siamo passati dalla Tigre di Viale Ungheria, Maurizio Glielmo in arte Gnola, della Gnola Blues Band, all'albino di San Antonio, Texas, Johnny Winter. Non avevo letto una mail che diceva: il massimo, ciao, simpatia rossonera Maurizio e Fabio dalla Nutria di Via Fratelli Rosselli. Il dromedario di Savignone non poteva mancare, dice grande gnolaccio. E poi sono in estasi, ciao Lu. Non so chi sia Lu, ma è un bel complimento davvero. Fabio quando viene a Firenze con la TBB, come fate a dire? Ma allora infierite, ma io verrei subito, da domani, anche soltanto per dei cantuccini e brigidini e un bel piatto di finocchiona, ma non ci sono locali, allora o troviamo una soluzione, oppure io non so se potrò andare avanti ancora tanto così. Tra l'altro quando mancherà la radio, e come faremo? Ecco, questo è veramente un messaggio importante. Per non rimanere scollegati, se soltanto potete, mandate la vostra email in modo tale che ci teniamo in contatto, e fatelo sulla posta che io vedo quotidianamente, che è quella della Treves Blues Band, trevesbluesband@hotmail.com. Io sono sicuro di leggerla, e così ci teniamo in contatto. Io adesso devo parlare di un personaggio che dalla prima puntata di Blues Express mi è stato vicino, ed è stato vicino anche a tutti noi nella costruzione della grande famiglia del rock. Sto parlando dell'amico Antlon da Pisa, che si chiama Antonio Tolu, però la sua indirizzo di posta elettronica da sempre è Antlon. Antlon mi lega anche la passione per la sua terra, che è la Sardegna, mi sembra di ricordare. Antlon mi scrive una bellissima mail che è abbastanza lunga, non la leggo, però sappi Antlon che ti avrò sempre nel cuore, e teniamoci in contatto. Viva il blues, blues alle masse. Basta, perché sennò mi arriva la commozione, quella brutta. Un saluto da Lucio di Bresso, e questi sono gli Allman Brothers Band. Spesso mi dicono, ma un brano di 7 minuti non è radiofonico. Radiofonicamente parlando, non si adatta molto. Però è la penultima puntata, quindi chi se ne frega. Allman Brothers Band, You Don't Love Me. What those young girls are trying to do. those young girls can do for you. Concerto del 1994, Allman Brothers Band, e ancora un ringraziamento forte, forte, forte agli amici della Audio Blob che mi mandano dei cofanetti, dei CD di blues, di rock, decisamente super. Nel frattempo è arrivato il Fanello, uno dei miei fans tassisti, è arrivato un bellissimo messaggio da tutto da Prato e poi da Rimini, mi sembra, da Forlì, scusatemi, Forlì Cesena, i Chicken Legs Blues Band, mi dicono che saranno tristi e tempestosi quando non sentiranno più Blues Express, ma noi ci terremo in contatto. E il blues, ma soprattutto la musica di Rock FM, il rock, non dimentichiamo che The Blues Had a Baby and they named it Rock and Roll. E poi tante persone che saluterò alla prossima puntata, sarà una puntata molto emozionante perché per la prima volta ho invitato la Travis Blues Band in diretta qui a Rock FM per presentare il nostro ultimo CD live che presenteremo in giro per l'Italia e sarà anche un'occasione per incontrare i tanti amici di Rock FM. E adesso è arrivato il momento di Blues the Force, la musichetta. Allora, partiamo da sabato 24 maggio, Good Rocking Tonight, dalle ore 18, Elvis Friend Fan Club d'Italia organizza per la prima volta in concerto, ci sarà DJ Fontana, lo storico batterista di Elvis Presley da 54-68, e poi un tributo a Elvis, dove? Al Filmo di Corte Maggiore Piacenza, info@filmor.it. Poi c'è una bella festa della musica dedicata a tantissime band emergenti, il 23, 24 e 25, a San Donato Milanese, frazione Poasco, organizzata dall'Atletico Poasco, con il comune San Donato Milanese, e domenica ci sarà la Travis Blues Band. E poi un altro bel concerto al Pulentin, in occasione dei quarantennale della scomparsa del leggendario Elmore James. Ci sarà la Cava Blues Trio al Pulentin. Dov'è il Pulentin? Come dov'è? È in via De Santi, Sancolo, Chiesa Rossa. E tutto questo capiterà, sapete quando? Venerdì, per esattezza, no, sabato 24 al Pulentin. Ma quanta roba c'è sabato 24? Ricordatevi, segnatevelo, venerdì 30, ore 18, sabato 31, ore 18, 24 ore, non stop, per ricordare che la buona musica di Rock FM non si ferma, va avanti, sempre sulla strada, on the road again. E questo è un brano dedicato a tutti i bikers in ascolto, Devil, Keep Your Motor Running. Devil. Keep Your Motor Running, 17:55, Blues Express, con il Pullman di Lambrate. Io adesso vi lascio in compagnia di un brano che vi traghetterà, come si usa dire, alla puntata del 26 maggio, puntata, ultima puntata di Blues Express. Questo non vuol dire che non mi vedrete più in zona, anzi, sarò presente anche in altre occasioni, perché voglio presentarmi qui, preciso, bello pulitino, bello pettinato, in modo tale che tutti gli ascoltatori potranno vedermi nella mia immensa bellezza e splendore. E sono, pensate, il più vecchio DJ di Rock FM. E anche questo, se qualcuno vuole magari portarmi qualche regalino, è quello con i capelli più lunghi. A proposito di regalino, Fregenhaus, ti ricordi che mi avevi promesso la soppressa col peperoncino? Attenzione, ogni promessa è debito. Vabbè, vi voglio bene, cosa vi devo dire? Io quando inizio, poi dopo veramente mi vengono i lacrimoni, mi vengono in mente tanti bei episodi. E ci vediamo lunedì prossimo. Vi voglio bene, che il blues sia sempre con noi, e un bacio da Fabio Trevi. Ciao.